Salva Danaio di Deborah Rosciani. Giornata da Deborah Rosciani, ben ritrovati a Salva Danaio. Per qualcuno potrebbe essere l'ultimo treno da prendere per recuperare almeno una minima parte degli investimenti fatti tanti anni fa, in particolare alla fine degli anni 90, e considerati fino ad ora del tutto perduti. Per altri invece le condizioni sono pessime, anche se ancora dettagli e particolari non ce ne sono, e in tutta probabilità non accetteranno quello che hanno già ribattezzato il nuovo capestro argentino. E sì, perché l'Argentina di Cristina Kirchner ha deciso di riprovarci, vuole tornare a finanziarsi sui mercati internazionali, ne ha bisogno. Per farlo però deve liberarsi di debiti vecchi. Quella zavorra rimasta fuori dall'accordo del 2005 con il quale aveva restituito ad un bel gruppo di investitori internazionali una minima parte di quei 60 miliardi invece di obbligazioni che non era riuscita a rimborsare nel 2001, e in questo gruppo c'erano anche 400.000 famiglie italiane. 5 anni fa a quell'accordo non aderirono migliaia di italiani che preferirono intraprendere altre strade per recuperare i loro investimenti, fra cui anche il super ricorso della Task Force Argentina alla Banca Mondiale, che è ancora in piena istruttoria. Peraltro ci sono delle novità che arriveranno nei prossimi giorni, ma in questi giorni è arrivata intanto l'altra notizia, che era già attesa, preannunciata, da alcuni anche temuta. L'Argentina ritorna sul mercato, per l'appunto vuole farlo, chiede agli investitori residui che hanno ancora le vecchie obbligazioni in mano, e qui ci sono 185.000 famiglie italiane con in mano 6 miliardi di dollari di titoli, chiede appunto l'Argentina di chiudere con queste persone ogni contenzioso, anche chi non aveva aderito appunto 5 anni fa. Il prospetto della nuova offerta è al vaglio della Consob, ma quindi dettagli non ne conosciamo ancora. I termini esatti dell'operazione dovrebbero essere resi noti entro una quindicina di giorni, ma sicuramente già tutte queste notizie hanno mandato in fibrillazione tutti i diretti interessati. Allora noi stamattina rifacciamo il nuovo punto della situazione con poche notizie concrete, viaggiamo sulle indiscrezioni, però per coerenza, visto che dal 2001 che seguiamo questa vicenda, ovviamente abbiamo ritenuto opportuno ritornarci anche oggi. Stamattina abbiamo Roberto Darin, corrispondente da Buenos Aires del Sole 24 Ore. Roberto, ciao, bentornato. Roberto, ci senti? Buongiorno a voi. Eccoci, buongiorno, qua Roberto, buongiorno. Sì, ci sentiamo perfettamente. Poi l'avvocato Paolo Fiorio, legale del Movimento dei Consumatori. Avvocato, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. E poi naturalmente ci collegheremo, lo facciamo nella seconda parte della nostra trasmissione, con il presidente della Task Force Argentina, Nicola Stock. Molti gli ascoltatori che ci hanno chiesto anche di ritornare su questo argomento sono soprattutto gli affezionati di Salva Danaio, che da qualche anno ci stanno chiedendo di dar loro una mano per quello che è nostra possibilità, tornare a fare un po' di pressione su questo argomento. Ci sembra giusto, anche perché soprattutto in molti sollevano quello che è stato, come dire, anche il disinteresse, la trascuratezza politica intorno a questo argomento. Però questo è un altro aspetto che magari stamattina ci interessa relativamente. Ricordo il numero verde per intervenire, che è l'800240024, il numero per scriverci dei messaggi è 349-238-6666. Siccome abbiamo molti ospiti e molte cose da dire, la borsa ve la racconto rapidamente. Era partita piuttosto incerta, adesso gli indici del vecchio continente hanno sensibilmente rafforzato la seduta: più 0,6% a Parigi, più 0,7% a Francoforte, Londra più 0,42%, Milano più 0,80%. Stanno correndo Mediolanum, dopo i conti più 3,56%, Bulgari più 2,23%, Banco Popolare più 2,17%, in calo Saipem dello 0,87%, Buzzi meno 0,68%, Geox meno 0,58%, quindi migliori e peggiori. Però la tematica principale di questi giorni è la valuta, con l'euro che ieri è sceso ai minimi di nuovo sia su franco svizzero che sul dollaro, oggi recupera un po'. Sul biglietto verde è a quota 1,3362, sul franco svizzero è a 1,4277. Lasciamo la borsa, ritorniamo ai Tango Bond. Titoli nuovi in cambio delle vecchie obbligazioni. A distanza di 5 anni dalla prima offerta, l'Argentina ha presentato una nuova proposta ai detentori di bond finiti in default nel 2001. I dettagli non sono ancora resi noti, ma se secondo alcuni si tratta dell'ultima occasione utile per recuperare parte del proprio investimento, altri ritengono che questa offerta sia addirittura meno vantaggiosa rispetto a quella avanzata nel 2005. In particolare, la precedente proposta, che aveva avuto adesioni totali pari al 76% circa, prevedeva il cambio dei vecchi titoli con nuove obbligazioni trentennali. Un'offerta che, di fatto, comportava la perdita di circa il 70% dell'investimento originario. Con l'attuale proposta, che si rivolge anche a coloro che avevano accettato il concambio del 2005, lo Stato sudamericano offre obbligazioni con due possibili opzioni, indicate rispettivamente come opzione discount e opzione par. Il tutto condizionato al successo di una parallela nuova emissione di obbligazioni argentine per l'ammontare di $1 miliardo. In attesa di conoscere le modalità di calcolo precise, che saranno rese note solo con il documento d'offerta, proseguono le iniziative legali. 800 24 00 24 il numero verde per i vostri interventi, 349-238-6666 il numero per i vostri messaggi. Già ne stanno arrivando alcuni. C'è un ascoltatore che chiede: fate o no il punto su Alitalia? A marzo dovevano arrivarci sul nostro conto titoli i nuovi titoli di Stato in cambio delle vecchie obbligazioni Alitalia e dei vecchi Mengozzi Bond. Siamo a caccia di notizie anche noi su questo. Eravamo indecisi oggi se fare anche un punto su questa storia. Non abbiamo ancora materiale per poterla fare. Speriamo di poterci arrivare magari la settimana prossima. Quindi lo dico a chi ci scrive, perché naturalmente su certe vicende di risparmio tradito facciamo un punto sempre costante della situazione. Su altre siamo un po' in difficoltà. Vorremmo potervi dare della ciccia, delle notizie concrete, e quindi quando ne abbiamo, naturalmente siamo a vostra disposizione. Certo che di concretezza ancora, Roberto Darin da Buenos Aires, ce n'è poca. Si sa che comunque il governo alla Consob italiana, così come l'aveva fatto alla SEC, all'autorità di controllo del mercato americano, ha presentato questa bozza di prospetto con la nuova offerta da rivolgere ai detentori di Tango Bond italiani. Si sanno poche condizioni per l'appunto. Si sa però di fatto che al tesoro argentino sono state trasferite riserve nelle scorse settimane per 6 miliardi e mezzo di dollari dalla banca centrale, e direi che però sono risorse che sostanzialmente non bastano a ristorare tutti i detentori di vecchie obbligazioni. Allora, Roberto, che punto è? Facci un po' il punto argentino della situazione. Sì, dunque il punto argentino è un po' complicato, però io vorrei ricondurmi in modo più puntuale agli interessi dei risparmiatori italiani, che mi pare sia la cosa più importante, e da qui vorrei proprio partire per ricordare, per parlare con, chiedere queste cose anche ai tuoi ospiti. E per ricordare appunto che a Buenos Aires questa nuova offerta viene giudicata anche dall'opposizione un successo, perché in qualche modo mostra la disponibilità del governo a saldare i debiti, a chiudere la partita. Non so se mi spiego. Sì, sì, chiarissimo. Con la consapevolezza che l'ICSID, l'organismo a cui la Task Force argentina ha fatto ricorso, e quindi la Banca Mondiale, il Fondo Monetario, percepiscano lo sforzo dell'Argentina. Questo cosa significa? Significa, in altre parole, che a Buenos Aires, io da cronista e da persona che vive qui lo vedo molto bene, c'è la percezione che la comunità finanziaria italiana sia a questo punto beneficiata di un'altra opportunità, e che allo stesso tempo la comunità internazionale riconosca in modo definitivo questo sforzo e chiuda la partita. Ecco, questo è l'atteggiamento che ha voluto, la postura che ha voluto prendere il governo argentino e che viene riconosciuta come probabilmente vincente. Ecco, allora mi chiedo, e chiedo ai nostri ospiti. Sì, so che hai una domanda precisa per Stock che interverrà più tardi. Ha ancora senso praticare la strada dell'ICSID, in sostanza? Esattamente, ha ancora senso di fronte a un'offerta che certamente non è favolosa, però forse davvero è l'ultima chance, e soprattutto potrebbe poi, come tutti sanno, il ricorso all'ICSID non dà certezze né in termini di temporali, quindi non si sa quanto tempo potrà rimanere aperta questa vertenza, né in termini di risultato finale. Allora noi abbiamo l'obbligo di chiederci, naturalmente, di valutare molto bene che cosa consigliare o non consigliare, perché ci sono in effetti sul campo molte indicazioni, poche certezze, diciamo, ma molte indicazioni. Infatti, che vanno nella direzione di... No, l'unica perplessità, Roberto, che io sì, insomma, è assolutamente condivisibile il discorso che tu hai fatto. Va ricordato anche che c'è una legge varata dal Congresso argentino nel 2005, l'anno prima dello swap, che impedisce all'esecutivo argentino, lo ricordavi anche tu sul Sole qualche giorno fa, di praticare delle condizioni migliori rispetto a quelle già accettate 5 anni fa dai detentori di Tango Bond. C'è da dire che naturalmente a questo paese si ha probabilmente la comunità finanziaria internazionale ha anche tutto il desiderio di farla tornare sui mercati, perché è un paese sul quale evidentemente la comunità finanziaria ha interesse ad investire, per cui questa esclusione evidentemente per larga parte della comunità finanziaria non è accettabile. C'è da dire che però nelle condizioni riproposte ci sono ancora, come dire, condizioni vecchie che conosciamo, titoli a scadenza lunghissima. Io poi ti farò ascoltare anche la testimonianza di un ascoltatore che ha, di una persona che seguiamo da tempo, che ha più di 70 anni e a cui viene proposto di avere dei titoli che scadono il 2038, per cui mi chiedo se questa può essere considerata una condizione accettabile, pur ribadendo condivido il discorso che tu facevi. Per qualcuno è sicuramente l'ultimo treno, perché la procedura Lixid è complessissima, e poi su questo punto Nicola Stock ci darà di nuovo tutti i ragguagli necessari, perché fra 15 giorni si apre anche alla Banca Mondiale un'altra partita importante. Avvocato Fiorio, Movimento Consumatori, buongiorno. Io, conoscendola, sapendo anche quello che avete fatto in questi anni, so che lei è, come dire, nella stessa linea che indicava in qualche maniera Roberto Darin. Forse è il momento di pensare al prendere o lasciare, e prendere forse sarebbe meglio. Ma sì, io anche se... allora, sull'offerta che verrà lanciata non abbiamo dati certi e quindi poi magari diamo solamente le indiscrezioni che abbiamo, però, certo. Però ragioniamo sulla base di ciò che è avvenuto negli ultimi 5-6 anni. Chi ha aderito all'offerta del 2005 oggi ha dei titoli che hanno un valore che è superiore rispetto al valore di mercato dei titoli di chi non ha aderito. Questo è un dato pacifico e assolutamente incontestabile. In particolare i titoli non scambiati hanno avuto delle flessioni enormi, per cui intorno al settembre, ottobre, novembre, primi mesi del 2009 il loro valore era sostanzialmente vicino allo zero, mentre i titoli scambiati hanno avuto un valore invece sicuramente sempre superiore, oltre a consentire un rendimento. Noi nel 2005 consigliammo di aderire all'offerta pubblica di scambio. Ottenne oggettivamente dei vantaggi rispetto a coloro che non aderirono, perché l'alternativa alla mancata adesione, qua arrivo alla domanda di prima, se abbia ancora senso praticare l'arbitrato Ixid, l'alternativa è solo quella di sperare di poter ottenere qualche cosa da questa procedura arbitrale. Però ricordiamo che questa procedura arbitrale, il cui tempi e il cui esito sono assolutamente incerti, tanto che è iniziata ormai 4 anni fa e non si è neanche conclusa la fase. C'è stata anche purtroppo la morte di un presidente di questo tribunale che è istituito appunto a Washington, e quindi i tempi si sono inceppati anche per quel motivo. Poi non so se è una giustificazione che a voi vale, però dobbiamo ricordare anche questo. Col presidente Stock lo abbiamo detto più volte. Detto questo, mi scusi se l'ho interrotto, avvocato. No, detto questo, i tempi, lei dice, comunque siamo sono a 4 anni dall'avvio del giudizio arbitrale e oggi non si sa neanche se la domanda che è stata fatta dalla task force argentina sia ammissibile, quindi l'alternativa è un'alternativa di assoluta incertezza. Teniamo anche conto del fatto che le condizioni, che a nostro avviso sono assolutamente vessatorie per l'adesione all'arbitrato proposto dalla TFA, prevedono la rinuncia all'impossibilità di fare un'azione legale alla banca, sì, delle banche. E questo a nostro avviso è un consiglio di non aderire all'offerta del 2005 della TFA è stato ha fatto sostanzialmente il gioco delle banche, le quali, se continueranno le cose ancora così per qualche mese, si metteranno al riparo, in quanto c'è il pericolo della prescrizione, che gli investitori potranno essere prescritti con 10 anni dal 2001, quindi al 2011 c'è ancora un anno e mezzo, quasi 2 anni, ma dopo quella data, entro la quale mi pare assolutamente inverosimile che ci sia un pronunciamento dell'ICSID, il diritto di ottenere risarcimento nei confronti delle banche che hanno venduto i titoli sarà ormai prescritto e decaduto. Avvocato, è stato chiarissimo. Io peraltro su questi punti con Nicola Stock ho discusso diverse volte da questi stessi microfoni. Sono tutti rischi che lui conosce benissimo. Proprio per questo motivo si era assolutamente impegnato anche a rafforzare le tutele dei risparmiatori. Per queste ragioni, sul fatto che ovviamente questa istituzione, la task force, sia nata soprattutto per tutelare le banche, e questo pure è pacifico, lo sappiamo benissimo. Siamo ritornati a Salvadanaio per rifare il nuovo punto sulla questione argentina che vuole restituire i vecchi debiti, e ci sono molte famiglie da risarcire in Italia, tutte quelle famiglie che non avevano aderito a quell'offerta di scambio del febbraio del 2005 con la quale l'Argentina si era impegnata a risarcire molto parzialmente obbligazioni che invece non aveva onorato nel 2001. Una sintesi radicale della situazione, però siccome il tempo corre, intanto saluto il Presidente della Task Force Argentina, Nicola Stock. Presidente, bentornato. Grazie. Ormai signora Luciani, abbiamo praticamente un appuntamento mensile con lei, tra l'altro forse ne dovremmo rifare anche un altro a breve, perché lo ricordiamo, dal 7 al 13 aprile si entra nel merito della vicenda ICSID, della procedura ICSID, con la chiusura della fase giurisdizionale. Adesso le sentiamo, so che lei vorrà rispondere anche alle sollecitazioni che ci sono state poste da Roberto Darin e dall'avvocato Fiorio nella prima parte. Le faccio sentire anche però un paio di ascoltatori, così almeno arricchiamo ulteriormente il nostro dibattito. Carlo da Piacenza, rapidissimo se ce la fa, buongiorno. Grazie Deborah, grazie a lei e Barisoni. Cercherò di essere breve, ma qui ce n'è un'infinità. Ecco, dica Nicola Stock se difende le banche o i consumatori, tanto per dire, no? Ecco, questa è una. Secondo, l'Argentina, tra l'altro, un mese fa, tanto per dire come gira a livello mondiale, prima di rivolgersi a quelli che erano i debiti, che dovevano pagare i debiti, si è rivolta ai fondi speculativi. I fondi speculativi al 30% hanno accettato subito. Basta, grazie Rosani, grazie. Grazie Carlo. Anna da Milano, rapidissima, la ringrazio anche lei. Pronto, buongiorno signorina. Sì, sì, la sentiamo benissimo, in diretta. Ecco, io volevo fare conti in mano, conti, diciamo, fatto il capitale 100 come esempio, hanno restituito 55, cioè tra capitale, cioè non è che abbiamo restituito, tra capitale, valore del mercato delle nuove obbligazioni emesse più le obbligazioni PIL, siamo quota 55. E tenendo conto che faccio capire, lei mi pare di capire che ha aderito alla prima offerta di scambio. Ho aderito alla prima offerta, sì. E volevo dire che tutto sommato non va poi così male, perché penso che se non ci sono nuovi scossoni dell'Argentina, nel giro di 5-6 anni, tenendo conto dell'interesse molto alto che pagano, si potrebbe andare dice lei, pari. È considerato anche il rischio che si è corso, dice lei, insomma, meglio quello che abbiamo portato. Questo che parlando solo di capitale, lasciando perdere l'interesse che avrebbe potuto rendere capitale. Anna, la ringrazio. Allora, Nicola Stock, da dove cominciamo? Mi pareva molto interessante il discorso che faceva Roberto Darin, no? Che sicuramente oggi l'Argentina addirittura sembra fare anche un'operazione di miglioramento della sua reputazione sui mercati internazionali incredibile, perché ha il consenso, questa seconda offerta che sta facendo in questo periodo, addirittura il consenso generale dell'opposizione del paese, ma anche a quanto pare della comunità finanziaria internazionale. Allora, da dove vuole partire? Beh, io non ho sentito i commenti del collega Roberto Darin. Ho letto il suo articolo alcuni giorni fa, ma certamente capisco che anche il collega vive in quel paese e deve stare attento anche a quello che scrive. Devo dire che l'Argentina abbia grossi simpatie nel consesso internazionale, visto anche che c'è già una parte di investitori istituzionali che aderirebbero, ma dobbiamo anche riflettere che questi sapevano della possibilità dell'Argentina di andare su una seconda offerta e hanno comprato queste obbligazioni nel gennaio-febbraio dell'anno scorso, perché già sapendo che si sarebbe andata questa offerta a 15 o 20 punti che erano a quel momento il mercato, quindi fanno un buon affare. Questo è ovvio. Quindi il fare questa operazione per loro è una cosa positiva. Che diciamo che intanto è anche un po' obbligatoria, perché sennò sul mercato non rientrano, per cui era quindi ora devono bisogna fare vedere forza. Anche se rientrano con questa facilità, perché ci sono dei grossi procedimenti in corso, non ultimo fra poco qualcosa a New York, e soprattutto l'offerta che, di cui io non ho nessun documento ufficiale ancora, sembrerebbe che non si faccia se non ci sono questo miliardo che questi institution investor o altri dovrebbero dare all'Argentina, quindi se l'Argentina è condizionata a certi parametri. Esatto, poi sentiamo. Ci sono diverse altre cose. Per la signora da Milano, ovviamente lei parla di interessi molto alti, diciamo interessi molto alti prima del 2001, perché con la nuova offerta che fu fatta nel 2005 gli interessi sono piuttosto bassi, perché si va, mi pare, dal 2,50 a partire dal 2,9, sì, e prima era ancora di meno, quindi interessi molto alti, alla fine mi pare che si arriva al 5% circa. Però di fatto, Anna, Presidente, qualcosa a casa lo ha riportato. Adesso dobbiamo parlare anche di quelle famiglie che invece hanno deciso di percorrere la sua strada, che è quella del ricorso all'ICSID, che invece al momento non hanno riottenuto niente. Chissà quando riprenderanno qualcosa, perché il suo obiettivo è aggredire i beni argentini, lo abbiamo detto più volte, e come dire, risarcire, restaurare, risarcire interamente le famiglie italiane. Lei oggi sente di addirittura poter esprimere, non dico una promessa di questo tipo, ma una rassicurazione di questo tipo, anche con la prescrizione, il problema della prescrizione alle porte? Ma adesso bisogna intanto vedere che cosa vogliamo dire per prescrizione. Prescrizione nei confronti dell'Argentina, posso assicurare i nostri risparmiatori che abbiamo fatto tutte le misure affinché la prescrizione nei confronti dell'Argentina non cada. Quindi abbiamo fatto su 7 le giurisdizioni in cui sono state emesse queste obbligazioni e abbiamo fatto sì che la prescrizione non cada. Non c'è pericolo che l'Argentina, posso dire, è finita la cosa. Ci facciamo spiegare dall'avvocato Fiori allora qual è esattamente il timore dell'associazione dei consumatori. Detto questo, allora l'ICSID, i tempi mostruosi, tempi, da Ben-Hur. Come lei giustamente ha detto, all'inizio di aprile avremo questa udienza finale sulla giurisdizione e subito dopo ci sarà quella sul merito, ma questa della giurisdizione è la parte più forte di questo procedimento che stiamo instaurando, subito dopo quella del merito, dove si dovrà stabilire i nostri obbligazionisti quanto dovranno ricevere, e questo naturalmente è una sentenza, un lodo che il Tribunale dovrà dare, quindi non posso rientrare su decisioni che dovranno essere prese. Certamente noi abbiamo chiesto, come è giusto che sia, l'importo nominale del titolo più gli interessi. Il Tribunale naturalmente potrà prendere delle decisioni che potrebbero essere inferiori di quello che noi abbiamo richiesto, ma certamente superiori a quello che adesso l'Argentina sta offrendo. Allora, volevo ritornare un attimo a Roberto Darin, così magari per fargli anche chiarire un punto, perché io conoscendolo so che sarà sobbalzato sulla sedia del fatto che deve stare attento a quello che scrive essendo in Argentina. Sì, è caduto un attimo Roberto Darin, adesso lo recuperiamo, perché tra l'altro stamattina lo avevamo al cellulare, quindi era anche in condizioni un po' problematiche perché sta seguendo anche altri lavori. Posso andare allora all'avvocato Paolo Fiorio del Movimento dei Consumatori per sentire qualche dettaglio in più, visto che tra l'altro è un legale, sulla questione della prescrizione. Vi convince la strada intrapresa? Nicola Stock dice di aver preso tutte le cautele possibili ed immaginabili, che io dal punto di vista legale non saprei assolutamente spiegare, avvocato, per proteggere i risparmiatori anche da questo problema? Ma Stock fa riferimento alla prescrizione nei Argentina. Confronti della Repubblica Argentina. Il problema è con le banche. Io facevo riferimento invece alla prescrizione nei confronti delle banche. Bisogna tenere conto del fatto che il panorama giurisprudenziale oggi riconosce, vede decine di sentenze a favore dei consumatori. Chi ha aderito all'arbitrato ICSID sì, avrà interrotto la prescrizione nei confronti della Repubblica Argentina, ma non può agire nei confronti delle banche. Quindi non si può interrompere in nessun modo? Bisogna rinunciare al giudizio arbitrale. Questa naturalmente è una cosa oggettivamente inaccettabile ed è il frutto del conflitto di interessi in cui si trova la task force argentina, che per tutelare gli investitori allo stesso tempo tutela gli interessi delle banche. E il problema sull'offerta a queste adesioni è sostanzialmente un'unica valutazione, cioè la valutazione è, le offerte non sono sicuramente esaltanti, ma ci si può aspettare di ottenere di più sulla base di comportamenti diversi dall'offerta. Allora, chi ha aderito, chi non ha aderito neanche all'arbitrato Exceed sicuramente non ha alcuna chance. Quelli che hanno aderito all'arbitrato Exceed, non so, naturalmente il giudizio è aperto, però teniamo conto del fatto che l'arbitrato è iniziato nel 2006, ad oggi non è stata neanche dichiarata l'ammissibilità di questo arbitrato. Dopo questa fase dovrà entrare nel merito e dovranno essere valutate le singole posizioni di 180.000 investitori. Sì. Una volta che ci sarà la decisione nel merito, poniamo anche favorevole, questa decisione potrà essere impugnata ad un organo d'appello all'interno dell'arbitrato, dopodiché ci sarà il problema dell'esecuzione. Sappiamo benissimo che il problema dell'esecuzione dei debiti nei confronti di uno Stato è molto pericolosa. Quindi a nostro avviso il comportamento da fare è quello di valutare attentamente l'offerta, rinunciare all'arbitrato e, dove ve ne siano i presupposti, avviare un'azione legale nei confronti delle banche. Nelle banche. Bisogna stare attenti perché la prescrizione decennale per le azioni di responsabilità delle banche sarà maturata nel dicembre del 2011, quindi manca poco tempo, e questa è la strada che a nostro avviso consente, oggi ha consentito a migliaia di risparmiatori di ottenere la restituzione integrale dei loro investimenti. Questa è la via da percorrere. Sì, secondo la sua idea, secondo l'esperienza naturalmente anche dei risparmiatori che ha seguito. Devo subito sgombrare il campo da alcuni equivoci. Ci sono degli ascoltatori che ci chiedono: io ho aderito alla vecchia offerta di scambio, che cosa ottengo con la nuova? Niente, perché avendo aderito alla prima, quella che si riapre adesso è per tutti coloro che nel mondo non hanno aderito alla prima proposta. Adesso, a meno che io non abbia capito niente di tutta la vicenda, ma seguendola almeno 8 anni, penso che almeno su questo punto possa essere molto chiara. Roberto Darin, ritorno da te, se volessi replicare a quanto diceva prima il presidente Stock, diciamo che lui esprime qualche dubbio sul fatto che abbia trovato questo largo consenso politico la proposta della presidentessa Kirchner e le condizioni appunto formulate per poter tornare sul mercato, quindi tagliare i vecchi debiti. È vero che tu hai una certa pressione perché scrivendo in Argentina devi stare attento. No, il punto è un altro. Io ovviamente l'opposizione fa il suo mestiere, no? Questo è fuori discussione, quindi l'opposizione è critica per condizione politica ogni azione del governo. Però bisogna riconoscere, almeno di questo ne hanno contezza tutti coloro che seguono la politica e la politica economica argentina, che questa ultima operazione del ministro dell'economia e quindi della presidenta del governo argentino, sì, viene riconosciuta come un successo. Questo è un fatto certo viene vista come l'anticamera del ritorno ai mercati internazionali, e questo è l'aspetto importante. Non tanto ma il successo in che cosa consisterebbe? Questo non è importante. L'unico fatto certo è che anche da parte dell'opposizione viene riconosciuto che la riapertura dell'offerta e un nuovo concambio è l'anticamera del ritorno dell'Argentina al mercato dei capitali. Questo significa avviare un circolo virtuoso di cui il paese inesorabilmente beneficerà. Non significa che loro abbiano commesso un sacco di errori di tutti i tipi, questo è un altro discorso. La mia premessa è che il ritorno dell'Argentina sui mercati internazionali viene ormai considerato acclarato, e che, seconda cosa, non in ordine di importanza, il ricorso all'Exceed viene da tutti, come ha poi spiegato molto meglio di me l'avvocato che si occupa l'avvocato del movimento dei consumatori, con tempi molto lunghi e quindi con tutti gli ostacoli che ne possono derivare. Anche perché ora, questo è un ricorso da proporzioni immense ed è il primo che all'ICSID finisce, appunto, è il primo ricorso di proporzioni di questo tipo che finisce all'ICSID, per cui per loro è anche procedurale. Sì. Un'ultima cosa, poi vi devo lasciare. Ma stiamo già chiudendo, Roberto, sì. Un'ultima cosa, il ricorso che viene, la riapertura del concambio, sì, in qualche modo, è questo, vorrei ribadirlo perché forse prima il presidente Nicola Stock non c'era, viene interpretato non solo a livello argentino, però anche dagli organismi istituzionali internazionali, come una riprova di una volontà, di uno sforzo politico ed economico per riaccreditarsi sui mercati. Questo certamente l'Argentina lo fa pro domo sua, quindi per un interesse personale, ma sui mercati internazionali gli organismi percepiscono questa nuova mossa come un ennesimo sforzo di pacificazione. Di questo, anche qualora i tempi dell'ICSID non fossero lunghissimi, tutti ne dovranno tenere conto. Ecco, e naturalmente, come dire, tutto ciò porta l'estrema conseguenza di tutto questo è che per i risparmiatori italiani potrebbe essere davvero l'ultimo treno, ecco. Perfetto, Roberto. Questo è quanto viene riportato e quanto viene accreditato. Abbiamo capito, tu fai il cronista e questo ci racconti. Ho 3 minuti, Roberto, comunque grazie moltissime per la tua disponibilità. Ci sono degli ascoltatori che ci chiedono: allora, cosa devo fare? Devo accettare l'ultima proposta, che non c'è ancora, dobbiamo aspettare ancora almeno 20 giorni, e staccarmi dal ricorso? Non possiamo darle dei giudizi di questo tipo, lo dico a tutti quelli che ci stanno scritto, perché non possiamo fare questa sollecitazione. Stiamo cercando di mettere sulla bilancia le due opzioni. Per alcune associazioni dei consumatori che hanno lottato tanto per suggerire di non aderire alla prima offerta di scambio, per qualcuno appunto chiaramente queste condizioni, anche le nuove, sono inaccettabili come le prime, altri invece, come il Movimento dei Consumatori, abbiamo l'avvocato Fiorio con noi questa mattina, suggeriscono invece di prenderla al volo quest'ultima opzione, perché potrebbe essere l'ultimo treno, e poi c'è il ricorso all'ICSID che sta andando avanti. Gianfranco, un nostro ascoltatore che seguiamo da tanti anni, Lucifora, abbiamo poi anche Orlando Masiero, abbiamo il fax di Rosanna Saviano, sono personaggi che seguiamo da anni. Vi chiedo un messaggio telegrafico per Nicola Stock, a cui poi concediamo di chiudere la trasmissione. Gianfranco, rapidissimo. Voglio dire semplicemente questo, che noi ascoltatori, non lo dico a lei carissima Deborah, ma siamo purtroppo appunto, tutti hanno raccontato, non posso assolutamente accogliere l'avvocato Fiorio che dice interessi soprattutto per il dottor Stock, quando lui ha interessi enormi insieme ad altre federazioni di consumatori, è una cosa... No, io voglio sentire la sua storia, perché lei mi ha detto: io ho 72 anni, devo accettare un titolo che scade nel 2038, mi interessa questo, Gianfranco. Mi interessa questo. Allora, come si fa una nazione che ha enormi ricchezze, l'ho già detto l'altra volta, e adesso nessuno degli intervenuti, non faccio distinzioni per non farle, nessuno degli intervenuti viene nel nocciolo, il signor Darin da Buenos Aires l'ha detto. Il dottor Stock parla come se fosse qui l'opposizione, certo che l'opposizione è una cosa convenientissima, dare due soldi alla gente come fa l'opposizione ad opporsi, è ridicolo. Va bene, Gianfranco, chiarissimo. Vado ad Orlando Masiero, rapidissimo. Orlando, anche lei, le chiedo veramente di essere telegrafico perché stiamo chiudendo. Allora io dico questo qua, no? Io sono argentino e quindi i miei bond non sono stati suffragati dall'ICSID. C'è però anche questo problema. L'ICSID è stata talmente dilatoria nella sua esposizione che ha fatto passare talmente tanto tempo che i risparmiatori stanno morendo. Si aspetta 2-3 anni e forse ha risolto completamente il problema. Orlando, allora, poi tra l'altro questo gruppo di risparmiatori, c'è la portavoce Rosanna Savian, hanno tentato di far sapere al ministro Tremonti in che condizioni si trovano, ma insomma con notevole insuccesso dal ministro non riescono proprio ad arrivarci. Presidente Stock, un minuto di tempo, non so da dove vogliamo. Grazie per darmi opportunità. Il tema è la ricchezza di quel paese, voi volete aggredire quella. Beh sì, certamente non è un paese povero, e tant'è vero che ha un rapporto col PIL del 40%, 42%, quindi ben migliore dell'Italia. È un paese che comunque dove vorrei replicare soprattutto all'avvocato Fiori, che ovviamente fa la difesa della sua associazione, quindi prima di tutto il fatto che duri l'ICSID, cioè, ci sono stati degli avvenimenti, è morto il presidente l'abbiamo ricordato, corte arbitrale, quindi ci sono stati gli avvenimenti. Credo che un processo in Italia andrebbe ben oltre 10 anni, un processo di questo genere. Noi stiamo ormai verso la fase finale. Non è vero che, per esempio, quando lui dice che ci siano... sia facile fare ricorso alle banche, perché vorrei che sia chiaro che per fare ricorso alle banche, e ce ne sono stati processi vinti ovviamente, sì, certo, ci devono essere validi motivi, validi quindi presupposti, sì, lo abbiamo ricordato tante volte, non mettiamo una cosa così. E dell'ICSID noi la prossima settimana, come dicevo, siamo lì, naturalmente noi stiamo per poter avere un successo, naturalmente questa dell'ICSID è una pressione molto dura verso il paese è perché vuole ritornare sui mercati, perché è sotto pressione per rifinanziarsi, ha nazionalizzato i fondi pensione, ha dato delle obbligazioni al Venezuela al 15% e si stanno ormai inaridendo le fonti di finanziamento. Ha tutto l'interesse. Deve per forza tornarci, per cui deve chiudere questi debiti, quindi, su questo siamo chiari. Quindi se l'Argentina ritiene che con i investitori speculativi, e vedremo quanti ne potrà ricevere, diciamo che riesca pure a ottenere il 50% dei 20 miliardi, rimarrebbero sempre 10 miliardi o 7 o quello che sarà da restituire. Non potrà ritornare sul mercato perché c'è questa pressione. Chiudere, presidente Stock, tanto ci risentiamo minimo fra un mese, quando la Consob avrà alzato il velo appunto sulle condizioni dell'offerta che gli è stata depositata dall'Argentina. Abbiate pazienza, ci sentiamo domani.